Radio 24 Reportage. Parigi e il Natale delle banlieue di Luca Galassi e Angelo Miotto. Cinque anni dopo le sommosse del 2005, il crogiuolo etnico, sociale e culturale delle banlieue continua a ribollire. La periferia francese vive tra le promesse mancate, il rischio di nuove violenze e il desiderio di fuga di chi vi abita. Allora i quartieri di Bobigny, Villiers-les-Bains, Saint-Denis, tra gli altri, furono teatri di scontri violenti con la polizia. Oggi finiscono sui media nazionali solo se scoppia una nuova rivolta. Non è tutto negativo qui. Si parla molto di violenza, ma non è tutto negativo. La vita è difficile per alcune persone, ma insisto, non è tutto negativo. Nella Saint-Saint-Denis non ci sono solo delinquenti, ci sono anche persone per bene, anche persone rispettabili. Non bisogna avere una visione troppo negativa, perché io sono fiero di venire dalla Saint-Saint-Denis. C'è una fierté d'abiter en Saint-Saint-Denis. Jonathan ha 24 anni e fa l'ingegnere. Lo incontriamo nel quartiere di Karl Marx, a Bobigny, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis. File di torri di cemento si alternano a giardinetti. Questa è una ZUS, una zona urbana sensibile, degradata e con alti livelli di disoccupazione, criminalità e violenza. Jonathan è bianco, quasi una rarità in banlieue. Ha studiato e gioca a rugby. Mark è invece di colore, non ha un lavoro. È ufficialmente il capo del quartiere di Karl Marx. Arriva in auto con un fare tra l'incuriosito e lo spavaldo. Uno che viene di qui vale 15.000 volte uno che viene da Parigi. 15.000 volte! Noi siamo stati allevati nel cemento, non è la stessa cosa. Loro hanno mangiato le cose dei ricchi, ma noi siamo stati allevati nel cemento, e non è la stessa cosa. Quando ce la caviamo per tutta la vita, ce la caviamo tutti insieme, non uno solo, ma tutti insieme. Le torri di Bobigny possono superare i 20 piani. Gli appartamenti più alti diventano spesso il luogo di elezione per gli scambi illegali e lo spaccio di stupefacenti. Per questo la CRS, la brigata speciale della polizia francese istituita da Sarkozy per pattugliare le banlieue, non ha vita facile nel contrastare le attività criminali che vi si svolgono. Jonathan conosce bene questa realtà e ne discute con Mark. È vero che ci sono sempre dei problemi negli atri dei palazzi, negli ascensori che non funzionano, che sono sempre guasti. Effettivamente le cose che si guastano hanno un costo. Lassù, per esempio, c'è un ascensore che non funziona. Cosa pensi del fatto che il tecnico dell'ascensore possa venire aggredito? Ma no, figuriamoci, non succede. Può succedere, no? Ma no, soltanto se lavora per la polizia. Tutti sanno cosa ci si può aspettare girando di notte a Bobigny, come in qualsiasi altra periferia parigina. Ma chi abita questi luoghi si affanna a sdrammatizzare, a disinnescare. Molti lavorano finché l'equazione si rovesci e la banlieue non sia più condannata al suo destino di periferia dell'impero, condannata dalla Ville Lumière a un'oscurità fatta di stereotipi, pregiudizi, abbandono. Purtroppo non sono le istituzioni a rimboccarsi le maniche, ma gli stessi residenti. Dopo i moti del 2005 e del 2007, il Plan Espoir Banlieue, l'ambizioso progetto di Fadela Amara, segretario di Stato con delega alle politiche cittadine, ha dissipato 1 miliardo di euro per uno sviluppo che non c'è mai stato. Florence Métia è antillana di seconda generazione. Ha fondato Radio Déclic, una radio costruita all'interno di una delle torri nel quartiere di Saint-Denis. Il Plan Espoir Banlieue erano dei soldi che non hai idea di dove siano finiti. E di tutte le associazioni che lavorano sul territorio, non ne conosco una che abbia avuto dei soldi in più. Noi non abbiamo avuto più soldi, continuiamo a fare lo stesso lavoro senza sapere dove siano finiti questi soldi. Le trasmissioni che facciamo sono soprattutto incentrate sulla musica, sull'hip hop, che è molto importante a Saint-Denis, perché è nato qui. ma si parla anche di questioni di discriminazione, di temi sociali, di precarietà, insomma di argomenti di questo tipo. I giovani si sentono un po' trascurati, il loro habitat è degradato, non viene mai rinnovato, si sentono un po' abbandonati. Femminista convinta spiega che le donne della banlieue devono vincere un triplo handicap: etnico, sociale e di genere. Ma è soprattutto verso i giovani che si concentra l'attenzione delle trasmissioni di Radio Déclic. Molti giovani sono figli dell'immigrazione. Esiste un grande problema di identità, perché è la Francia ad avere un problema di questo tipo con le sue vecchie colonie. La vecchia generazione è entrata in un meccanismo di sottomissione, mentre la nuova non ha più riparo, non sa più chi sia. Sente parlare di schiavitù, di rapporto con l'Africa e oggi rivendica alcune cose. Alcune volte lo fa in maniera corretta, altre volte meno. Vivere in banlieue è anche sopportare la discriminazione. Qualcuno sostiene che i moti di qualche anno fa furono innescati dalla scintilla del razzismo. Stanchi di essere considerati cittadini di serie B, nonostante fossero nati in Francia e avessero la cittadinanza francese, gli immigrati di seconda generazione hanno fatto esplodere la loro rabbia contro la polizia e lo Stato. Ecco cosa pensa della polizia Spikey, uno dei ragazzi di Saint-Denis che frequentano la radio di Florence. Diciamo che non mi piacciono troppo. Sono un po' fissati con non si sa bene cosa. Ce ne sono alcuni che parlano male alla gente durante i controlli. Ce ne sono alcuni che sono molto volgari. Non è tanto una volgarità fatta di insulti, è piuttosto una volgarità generale nel parlare. Ils considèrent vraiment les gens comme des merdes. Donc je m'appelle Christelle Evita. J'ai 33 ans. Mi chiamo Christelle Evita. Ho 33 anni, vivo a Parigi, ma vengo dalle banlieue. Quando parlo di banlieue, parlo della banlieue popolare, quindi Villiers-les-Belles e Sarcelles. Una decina d'anni fa abbiamo fondato, io, mia sorella e alcuni amici, un'associazione che si chiama Influence. Oggi questa organizzazione propone delle attività di decryptaggio dei media, insegnare. Anche se la parola è un po' forte, aiutare i giovani a decriptare l'immagine mediatica, a subirla di meno. In pratica, come farsi manipolare di meno, tra virgolette, dai giornalisti che arrivano sul territorio con delle idee talmente preconcette che non si può rispondere loro in modo naturale. Bisogna essere preparati. Ecco, questa è la nostra organizzazione. A Villiers-les-Belles, nel 2007, una rivolta esplose in seguito all'incidente tra un'auto della polizia e una moto guidata da due giovani di colore, che morirono sul colpo. Esclusa naturalmente la responsabilità della polizia, cinque ragazzi, sempre di colore, furono condannati a 15 anni di galera, perché in base a testimonianze anonime, responsabili di aver appiccato il fuoco della rivolta. Un processo di classe, è stato detto da molti, razzista, secondo altri. Allora i media esibirono il loro volto peggiore. Non si può parlare di una città mostrando solo un quartiere. Hanno mostrato solo quella parte di città dove ci sono state le sommosse. Anche solo a dirlo è talmente banale. Hanno mostrato una parte. Hanno mostrato i giovani, la gente, che tirava le pietre o appiccava il fuoco. Ma nello stesso quartiere c'era gente che incendiava case e non ti hanno mostrato le vittime di quelle auto in fiamme. Non ti hanno mostrato i bambini nel panico. Non ti hanno mostrato le famiglie nel panico. L'immagine che hanno dato è che Villiers-les-Belles è una specie di zona di non diritto integrale. Non hanno mostrato che la città è stata blindata. È stata ingabbiata come se fosse un territorio occupato. Tutto questo non è stato mostrato. Eppure c'è chi in banlieue vive bene, anche senza soldi, e non vorrebbe andarsene, come racconta Mark a Jonathan, che ha lasciato la banlieue perché non trovava lavoro. Tutti vogliono i soldi. Se ci fossero i soldi, non ci sarebbero tutti questi problemi. Se avessi i soldi, te ne andresti da qui? No, rimarrei qui. Io qui ci sto bene. Certo, non è facile. Ma poi li vedi i bambini, si divertono tra loro. Non abbiamo lo stile di vita che c'è a Parigi nel 16°, ma insomma ci si arrangia. Poi ecco,